La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura. L'articolo 88 disciplina le crisi di governo, cioè stabilisce come e quando il Presidente può sciogliere le Camere. Sappiamo che la nostra è una forma di governo repubblicana e che quindi il governo deve essere legato al Parlamento da un rapporto fiduciario. Sappiamo anche che il Parlamento dura in carica 5 anni e che alla fine della legislatura si svolgeranno naturalmente nuove elezioni. Tuttavia, proprio nella dinamica parlamentare, può accadere che emerga l'esigenza di sciogliere anticipatamente le Camere, cioè di dover indire nuove elezioni in quanto il Parlamento non riesce ad identificare una nuova maggioranza che possa reggere un governo. Leggendo l'articolo 88, lo scioglimento anticipato è un potere classicamente presidenziale e come potere presidenziale deve essere esercitato in maniera bilanciata. Quindi il Presidente può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere. Quindi il Presidente della Repubblica deve prima sentire i presidenti delle Camere e poi può addirittura decidere di sciogliere solo una delle due Camere. Ci può sembrare strano in un sistema di bicameralismo perfetto lo scioglimento di una sola Camera, tuttavia nella prassi repubblicana è accaduto nelle prime legislature. Infatti, il testo originario della Costituzione prevedeva una durata differenziata della Camera e del Senato, 5 e 6 anni, e quindi nel 1953 e nel 1958, alla scadenza della legislatura per la Camera, venne sciolto anticipatamente il solo Senato, in maniera da poter svolgere elezioni contestuali. Da allora poi venne anche modificata la Costituzione e, come sappiamo oggi, abbiamo un sistema pienamente uguale anche riguardo alla durata delle Camere. Il secondo comma riguarda il cosiddetto semestre bianco, cioè che negli ultimi mesi del suo mandato, nell'ultimo semestre, il Presidente non può sciogliere anticipatamente le Camere. Questa è una specie di deterrente per il Presidente, in maniera da escludere che un Presidente, alla fine del suo mandato, possa, in maniera non bilanciata e non avveduta, sciogliere le Camere.